La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al Manifesto di 101, un atto di protesta di alcuni intellettuali contro la repressione sovietica in Ungheria del 1956 e allo storico Piero Melograni, scomparso nel 2012, che ne fu uno dei firmatari. Con Andrea Graziosi, docente di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, ricostruiamo le vicende che portarono a tale manifestazione di dissenso nei confronti dell'Unione Sovietica e del Partito Comunista. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla battaglia di Gettysburg, combattuta nel luglio del 1863. Ma la parola ora va a Dino Pesole. Il 1956, l'anno in cui l'Unione Sovietica represse nel sangue la rivolta in Ungheria, fu uno spartiacque per molti intellettuali e politici che proprio in seguito a quei tragici eventi cominciarono a prendere le distanze dal Partito Comunista e in molti casi decisero di uscire dal partito per intraprendere altri percorsi politici e intellettuali. Uno di questi intellettuali fu lo storico Piero Melograni, scomparso proprio un anno fa, il 27 settembre del 2012, storico dei totalitarismi che nel secolo scorso presero, come sappiamo, la forma del fascismo e del comunismo. Melograni aderì al Partito Comunista nel 1946. Ne uscì con un altro centinaio di intellettuali, tutti firmatari del Manifesto dei 101, proprio nel 1956, in aperta polemica contro la repressione sovietica in Ungheria. Lasciata la politica per circa un trentennio, si dedicò esclusivamente all'attività accademica, per poi riapparire sulla scena politica nel 1995, prendendo parte alla convenzione liberale del radicale Marco Taradas. Nel 1996 fu eletto deputato come indipendente. Nell'arco di quella legislatura, Melograni fu incaricato, assieme ad altri 60 saggi, di scrivere la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Melograni si autodefinì un liberale, non certo un reazionario. Per questo approdò alla Camera nella 13ª legislatura, scelto da Silvio Berlusconi per dare un impianto culturale a Forza Italia, insieme ad altri intellettuali come Lucio Colletti e Marcello Pera. Nel 2001 Melograni decise poi di non ricandidarsi con i forzisti perché, disse, deluso dalla vita parlamentare, siamo dei semplici spingitori di bottoni. Così Melograni esponeva la sua tesi sui totalitarismi. Ascoltiamo. In Europa abbiamo avuto tre sistemi totalitari che si sono affermati in quel secolo. Innanzitutto il sistema comunista. In secondo luogo il sistema nazionalsocialista in Germania, quello di Hitler, e in Italia il fascismo di Mussolini, che era il meno totalitario fra i tre. La ragione per la quale i totalitarismi si sono affermati va cercata innanzitutto nelle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, una guerra che ha costituito un trauma terribile per l'umanità e per gli europei in particolare, anche perché la Prima Guerra Mondiale non soltanto fu un fatto dirompente in se stessa, ma purtroppo si concluse con una pace che fu firmata nel castello di Versailles e che per questo viene chiamata Pace di Versailles, ma era stata elaborata durante una lunga conferenza tenutasi a Parigi alla fine della guerra, ma una pace piena di difetti, piena di errori. In secondo luogo, nel fatto che anche a causa di questa guerra si è scoperto il volto demoniaco della modernità. La modernità provoca disordine e i totalitarismi sono stati un tentativo di tornare all'ordine. Abbiamo in linea lo storico Andrea Graziosi, che è docente di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, è autore di diversi saggi sull'Unione Sovietica, un grande esperto appunto di quello che fu quell'impero tanti anni fa, e sappiamo poi venne a dissoluzione nell'89-90. Buonasera professore, anzi bentornato. Grazie. Grazie, buonasera a lei e agli ascoltatori di Radio 24. Noi abbiamo colto l'occasione per riparlare di quegli eventi nel rievocare la figura di Melograni, però con lei vorrei parlare proprio di quel fatidico anno, il 56. Cosa indusse l'Unione Sovietica a reprimere nel sangue la rivolta in Ungheria? Sì, guarda, prima di tutto premetto che anche per me è una storia familiare, perché mio padre, che era un microbiologo, uscì dal Partito Comunista con Melograni nel 1956, quindi sono storie di famiglia. Ecco, allora la ancora storia, più vive. La storia, aggiungo, mio padre rientrò nel 68 quando il PC condannò l'invasione di Praga, dicendo allora avevo ragione io, per capire com'è strana la storia. Ma dunque, 1956 è un anno chiaramente cruciale per... non solo per l'Unione Sovietica, io direi per il movimento comunista mondiale in generale, perché aperto dal 20° congresso, in cui un paragone che faceva un mio vecchio professore era come se il Papa dicesse a tutti che Dio era un mostro, provandolo. Non scordiamo che Stalin era stato santificato. Infatti ricordiamolo, professore, ai nostri ascoltatori, quel 20° congresso, di fatto, quando Khrushchev denunciò al mondo a questo punto i crimini di Stalin. Ecco, la cosa interessante che poi abbiamo scoperto è che le riforme avevano preceduto quella denuncia all'Unione Sovietica, le grandi riforme sovietiche sono del 53-56, cioè la denuncia di Stalin avvenne al culmine di un processo riformista e diciamo Khrushchev ebbe il coraggio di denunciare Stalin, cosa che gli fu sconsigliato da tutti e che irritò moltissimi dirigenti comunisti come Togliatti, proprio perché l'argomento era: visto che le riforme le abbiamo già fatte, il sistema stalinista l'abbiamo smantellato in silenzio, perché dobbiamo rovinarci l'immagine agli occhi del mondo? La critica ovviamente era ingenerosissima e non coglieva la fondatezza morale anche della denuncia di Khrushchev. La questione però è che politicamente questo attacco alla figura centrale del movimento comunista effettivamente generò, soprattutto nei paesi occupati dall'Unione Sovietica, dei grandi sommovimenti. I polacchi, che furono i primi a muoversi, ci avete imposto un regime repressivo, durissimo, avete torturato anche i nostri dirigenti comunisti, diciamo più popolari, come Gomulka, in nome di una deità Stalin, che adesso ci dite che era un mostro. Quindi tutte quelle persone avevano ragione loro. Quindi una sorta di terremoto nella galassia comunista. Assolutamente. E questo terremoto, che ebbe il primo epicentro in Polonia e poi si propagò soprattutto in Ungheria, non a caso per i legami storici tra il patriottismo polacco e ungherese, basta pensare anche all'Ottocento, alle connessioni pure con quello italiano, provocò ovviamente una reazione ancora più forte in Ungheria. Ricordiamo che la Polonia era un paese bene o male alleato dell'Unione Sovietica, anche malgrado Katyn, tutti gli screzi, le rotture. L'Ungheria era stata un'alleata dei nazisti, della Germania. Mentre con Gomulka e i polacchi Khrushchev ritenne di poter parlare, alla fine di cedere di fatto le loro richieste, con l'Ungheria l'atteggiamento fu molto diverso. Anche lì però con l'instabilità dei vertici comunisti era tale che all'inizio anche in Ungheria si pensò di cedere alle richieste, tant'è vero che il governo Nagy fu all'inizio, come dire, quasi approvato, Rákosi era stato mandato via, le truppe sovietiche prima intervennero, poi si ritirarono da Budapest. Il problema vero che determinò poi la decisione di cambiare, da questo punto di vista appunto il 56 è un apice di riforme e un inizio, se vuole, di una controriforma che dura circa 2 anni. In che modo? È determinato proprio dalla paura che ha Khrushchev delle accuse che gli fa alla dura del partito. Hai visto, tu hai voluto denunciare Stalin, hai provocato questa catastrofe, tutti si ribellano, ci abbiamo perso la faccia davanti al mondo, è tutta colpa tua. E ricordiamoci, mentre proprio lui veniva sottoposto a queste accuse, c'è la cosa egiziana, che è davvero poi il punto di svolta, perché quando Israele e i francesi e gli inglesi, senza l'accordo e anzi contro il parere degli americani, scatenano la guerra a Suez per riprendersi il canale, Khrushchev fa un intervento al Comitato Centrale, al Politburo, dicendo: noi rischiamo di perdere non solo l'Ungheria ma anche l'Egitto, basta. Ecco, ma l'altra cosa interessante che vorrei approfondire con lei: in che modo quel che accadde in questi anni, 56 e subito dopo, contribuì a modificare anche l'equilibrio geopolitico nel mondo, che come sappiamo era in piena guerra fredda? Ma guardi, di fatto, se ci pensa, l'equilibrio fu rinsaldato quasi dall'intervento, perché, e poi dalla costruzione del muro, che di fatto ne è il... la conseguenza logica, perché gli americani, malgrado tutta la vittoria della guerra fredda, lasciarono fare, non prestarono alcun aiuto. Cioè ci fu il primo riconoscimento implicito che gli accordi di spartizione erano reali. E che quindi non si interveniva, e fra l'altro l'intervento repressivo così forte, morti furono alcune migliaia, mostrò a tutti, diciamo, i potenziali riformatori, ribelli dell'Europa orientale, che bisognava stare zitti. Come terremotò la politica italiana quell'evento drammatico? Guardi, il terremoto fu relativo, perché sicuramente questo gruppo di intellettuali, il più prominente era Giolitti, lasciarono il PC. Togliatti fra l'altro era stato consultato da Khrushchev, che faceva sfoggio di democrazia, come anche Tito, e diede l'approvazione all'invasione dell'Ungheria. Quindi ci fu una prima rottura, se vuole, dell'egemonia comunista, però intellettuale, però io direi che il partito riprese bene il controllo allora, se pensa poi anche ai successi successivi. Io direi che la grande sconfitta fu l'incapacità di affrontare intellettualmente la crisi del comunismo che il 1956 comportava, e la decisione di Togliatti di mettere tutto sotto il tappeto sostanzialmente, di isolare questo gruppo di intellettuali, fare finta che il 1956 di fatto non c'era stato e di continuare a dire che si poteva andare avanti così. Cioè il 1956 è un atto di negazione della realtà da parte di Togliatti sostanzialmente, e da questo punto di vista ha degli effetti devastanti che si manifestano qualche decennio dopo, perché interrompe, non dà via ad alcuna riflessione critica dentro il partito, se non quella che poi porta, diciamo, a condannare, a dire. Però in Cecoslovacchia era più facile, perché in Cecoslovacchia in potere erano i socialisti, era molto diverso. Io direi, se ho un minuto, che la conseguenza forse più grande nel partito comune, nel Movimento Comunista Internazionale, si ha in Cina, perché Deng Xiaoping, che ha sofferto le persecuzioni di Mao, che era un orribile tiranno come Stalin, diciamo, proprio sull'esempio di quello che fece Khrushchev, cioè di denunciare il despota rivelandone la mostruosità e di mantenerne il sistema economico perché credeva che il socialismo era migliore. Deng Xiaoping, 20 anni dopo, decise di tenere la foto del despota che l'aveva esiliato, torturato i suoi amici, rotto la spina dorsale al suo figlio, per preservare la stabilità politica e di smantellare completamente il sistema economico. Quindi, certo, se vuole, la lezione 56, sì, di destabilizzazione vera, sì, si ha nell'altro grande paese comunista, che alla morte di Mao reagirà in maniera assolutamente contraria. Grazie professore, grazie molte professor Graziosi per questi chiarimenti e buona serata. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte de La storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla battaglia di Gettysburg, combattuta nel luglio del 1863 e considerata una delle più importanti battaglie della guerra di secessione americana. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 30 settembre alle 21 su History Channel. La stessa passione che ha dato vita alla nazione americana, ora la divide. Un piccolo scontro iniziato accidentalmente sfocia nella battaglia più sanguinosa mai combattuta sul suolo statunitense. Due eserciti americani si affrontano in una piccola cittadina di campagna dello stato della Pennsylvania. Presto 50.000 uomini saranno morti, feriti o dispersi. Due anni dall'inizio della guerra civile americana, l'esercito confederato sta invadendo il nord. Alle porte di Gettysburg, le truppe di ricognizione dell'esercito confederato incontrano la resistenza unionista. Lo scontro diventa incontrollabile. A Gettysburg gli abitanti terrorizzati si nascondono ovunque possono. Persino nel caveau della banca. Altri scappano mentre i ribelli si disperdono per le vie della città. Specialmente gli afroamericani, per evitare di essere catturati dall'esercito dei ribelli. A soli 11 chilometri a nord dalla linea Mason-Dixon, Gettysburg si trova lungo la Underground Railroad, un percorso di luoghi sicuri utilizzati dagli schiavi in fuga verso il nord. Le città verso le quali fuggono, come New York e Filadelfia, sostengono la loro causa, offrendo loro cibo e protezione. Qualora venissero catturati, le punizioni sarebbero brutali: orecchie mozzate, tendini delle ginocchia tagliati. Edward Ayers, autore di The Crucible of the Civil War, stima così la ricchezza apportata dalla schiavitù in America. Solo la popolazione schiavizzata del Sud vale come tutte le ferrovie, le fabbriche e le banche degli Stati Uniti messe insieme. Si tratta di un giro d'affari del valore di più di 3 miliardi e mezzo di dollari. Anche Harry Jones, curatore del Museo della Guerra Civile Afroamericana, lo conferma. La ricchezza del Sud dipende quasi esclusivamente dalle persone schiavizzate. Stesso concetto, quello espresso da Gary Adelman, storico e autore di Civil War Trust. Possiamo discutere dei diritti degli stati o degli aspetti politici. Tutto è legato alla schiavitù, che è al centro di tutto e ha causato la guerra civile. Al calar della notte la bandiera confederata sventola su Gettysburg. Le case e gli edifici pubblici diventano ospedali improvvisati per far fronte alle numerose vittime. Fanny Buehler, madre e casalinga, mette in pericolo casa e famiglia per ospitare i soldati nordisti feriti. Non avevo mai visto uno spettacolo tanto orrendo. Uomini sudici, senza cappello, senza scarpe e coi piedi doloranti. Provai una profonda compassione. Fino ad ora il sanguinoso mestiere infermieristico è sempre stato riservato agli uomini. Ma durante la guerra civile 20.000 donne si arruolano per prendersi cura delle vittime. Un'infermiera nordista, Clara Barton, fonderà la Croce Rossa Americana. I ribelli vanno di porta in porta alla ricerca dei soldati nordisti che si nascondono in tutta la città. Durante la guerra sono così tanti gli uomini catturati che Nord e Sud stringono un patto d'onore. I prigionieri in libertà condizionale giurano di non rientrare in battaglia finché non verranno scambiati. George Wunderlich, direttore esecutivo del Museo della Medicina della Guerra Civile, ci spiega in cosa consisteva la libertà condizionale. La libertà condizionale consisteva in un pezzo di carta con su scritto più o meno «Non combattere più o sarà peggio per te». In seguito, gli uomini dell'uno e dell'altro esercito avrebbero fatto in modo di incontrarsi in un posto neutrale per scambiarsi i soldati proprio come i ragazzini barattano le figurine. Ti darò 3 generali in cambio di 3 colonnelli e 9 tenenti in cambio di 15 soldati semplici. La pena per chi trasgredisce è la morte. Nei campi attorno a Gettysburg viene fatta una macabra mietitura. I morti e i feriti della prima giornata. A curare i feriti di entrambi gli schieramenti c'è il dottor Legrand Wilson, sudista, profondamente religioso. La sua città natale è Jackson, nel Mississippi. Ha studiato al nord e la sua famiglia possiede 40 schiavi nel Mississippi. Fu la mia prima esperienza sul campo di battaglia dopo il conflitto a fuoco. E l'orrore che vidi è indescrivibile. Se ogni essere umano potesse testimoniare il risultato delle passioni folli dell'uomo che vidi io quella notte, la guerra cesserebbe. Non ci sarebbero mai più battaglie. Wunderlich fa il conto delle vittime. Si stima che i soldati che hanno perso la vita durante la guerra civile siano tra i 620 e i 630.000. Riportato ad oggi, sarebbe come perdere 6 milioni di americani. Un'innovazione che ha reso questa guerra particolarmente sanguinosa è la palla miniera. Il 90% dei soldati curati da Wilson riporta ferite da palla miniera. La cavità conica alla base e le scanalature ne garantiscono la stabilità aerodinamica e l'efficacia. Al momento dell'impatto si appiattisce, causando ferite molto più larghe di quelle delle pallottole tradizionali. Grazie a questa deformazione, frantuma le ossa che colpisce, perfora il corpo in profondità e, a causa dei batteri contenuti nelle scanalature, provoca la cancrena. L'unico modo per arrestarla è l'amputazione. Gli afroamericani fanno da barellieri. Alcuni schiavi sfruttano l'invasione come un'occasione per scappare. Entro la fine della guerra, 500.000 di schiavi è fuggito al nord, di cui 150.000 si arruolano nell'armata unionista. Il dottor Wilson perde un membro della sua famiglia durante il primo giorno di battaglia. Tra i morti c'era mio nipote, il tenente George Adrian Howes, che doveva essere stato colpito durante la mattinata mentre avanzava verso il nemico. Il suo fedele servitore, Steven, si spinse nel campo di battaglia alla ricerca del suo corpo. Lo trovò e lo portò all'ospedale per la sepoltura. I membri della stessa famiglia spesso combattono fianco a fianco. È una delle ragioni per cui lottano così strenuamente. Il conteggio dei feriti e quello dei caduti è spietato. Adelman ce lo racconta così. In alcuni stati, più di un quarto dei soldati anziani morì in guerra e centinaia di migliaia rimasero feriti. Vi furono città in cui tutta la popolazione maschile giovane fu sterminata. Dopo due giorni di battaglia, i feriti di entrambi gli schieramenti arrivano negli ospedali da campo improvvisati. In uno di questi, il soldato semplice Joseph Lloyd sta per perdere il braccio. È il portabandiera di Barksdale, a 23 anni. Durante la guerra civile, per ogni soldato caduto in battaglia, ne moriranno due per malattie riportate in seguito alle cure mediche. La soluzione più rapida per curare le ferite agli arti è l'amputazione. La medicina è agli albori, ma l'anestesia è già in uso. Recentemente è stato scoperto il cloroformio e la morfina viene distribuita liberamente. A disposizione ci sono anche 4.000 litri di whisky. Da quasi 24 ore senza sosta, il chirurgo confederato Legrand Wilson sta curando i feriti. Il paziente può stare seduto su una sedia o disteso vicino al bordo del letto. Va applicato il laccio emostatico. Mentre un assistente tiene la mano, l'altro deve prendere l'avambraccio. Niente antibiotici, nessuna conoscenza delle infezioni. Non si fermano neanche per lavarsi le mani o per pulire gli strumenti. È qui che ha origine l'espressione americana vecchio sega ossa per indicare un medico non competente. Lloyd sarà uno dei fortunati. Dalle statistiche, dopo un'amputazione, sopravviveva solo il 77%. MacPherson, autore di Battle Cry of Freedom, descrive così la cittadina a guerra terminata. La città di Gettysburg per mesi fu sommersa dai feriti. L'odore della morte continuò ad aleggiare per settimane, per mesi. Le orribili conseguenze di quella battaglia rimasero ineguagliate per tutta la guerra. Che noi qui solennemente si prometta che questi morti non sono morti invano. Che questa nazione, guidata da Dio, abbia una rinascita di libertà. E che l'idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire a causa della terra. Gettysburg ha rappresentato il punto di svolta di una guerra che è stata decisiva per il futuro dell'America e che ha permesso di preservare il principio di libertà e di uguaglianza tra gli uomini, in nome del quale si è combattuto. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Gettysburg. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 30 settembre alle 21 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Anita Panizza e Isotta Scenna. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.